Bianca, rossa e nera è la notte. Tracce di un abecediario. A. Out, out. C'era da scegliere. E io avevo scelto. Out, op. Armato di pennarello, tracciavo la A di autonomia su diario e panchini per fronteggiare i maledetti fascisti. Era una A nera, potente come il nero notte degli anfibi e del chiodo. A Milano parlavo romanesco, accentuavo. Mi sembrava che facesse effetto, che gli piacesse. Ci guardavano come fossimo selvaggi. Lasciavano fare. Si vede che avevamo la musica nel sangue. Dai, falla su, dicevano. Una frase che ogni tanto inserisco nell'intarsio del discorso. Una tessera anomala, preziosa perché esotica. Una preda trafugata dalle terre della nebbia, una cicatrice. Siamo ciò che diciamo, soprattutto quando si sta zitti, nel flusso pensiero-parola. Il cervello è una piazza lastricata con pezzi di riporto. Se fossi una piazza, mi basterebbero un paio di tavolini con i bar all'aperto, una fontanella in mezzo ai banchi del mercato e un muretto per berci la birra, la sera, una cosa modesta. Poi, se fosse possibile, qualche bella scritta sui muri. Una falce e martello un po' scolorita ci starebbe tutta. Un tabaccaio e una panchina per mangiarci il gelato. Qualcuno bestemmia intorno a un mazzo di carte. Questo mi piacerebbe. Essere fiori e bestemmie. E acqua che scorre dai tubi di ghisa per lavare le pesche nelle mani della gente. Niente piccioni però, cioè pochi. Non vorrei essere sempre pieno di merda. Ma ci vogliono gli uccelli. Altrimenti che ci fanno le briciole in terra? E senza briciole, niente panini. E senza panini, niente ragazzi. E senza ragazzi, niente baci. E senza baci, a che serve una piazza? B. Se parlo di baci è un trucco per passare alla B di bricco. Un suono venuto su da solo, insieme ad una quasi immagine. Non saprei dire meglio. Sembrava la voce di nonna. Eppure non ricordo. Cioè, se adesso mi fermo e dico, ok, vai con la voce, non viene su niente. Poi ancora, in attesa, quell'ombra di suono che dice il bricco del latte. È che me lo vedo davanti, come se potessi toccarlo, dirne il sapore, il riflesso. Ma non ce n'è abbastanza di materia per farne parola. Allora niente. Mi si inceppa il cervello, devono essere i neuroni morti che sbattono contro le pareti del cranio, come moschini sul parabrezza. Ciac! E si formano le parole, cic! E viene fuori il bricco da una crepa nel cervelletto marcio. Una camomilla, mi faccio una camomilla, anche se fa caldo, meglio, sudo, piscio, elimino tossine. Anzi no, fa troppo caldo, resto al PC. È pazzesco pensare che in questa tastiera si nasconda l'universo. Basterebbe infilare la giusta sequenza, correre tra questi tasti neri, neri, come i fiordi dei diesis, imponenti, sulla palude lattiginosa del do, re, mi. Do, re, mi, do, re, mi, bel bambino, fai la nanna, piccolino. Filastrocche. E vorrei invece parole scolpite, irremovibili, sedute comode. Parole che sappiano incantare, pur essendo quasi niente. Quando sono fuori, quelle poche volte che mi è successo, quando il limite tra il certo e l'incerto è labile, quando non sai più se sia tutto vero o tutto dentro la tua testa. Mi è capitato di ricordare dei versi di Rimbaud e mi sono detto che una cosa tanto bella non poteva essere solo mia. Una vocale colorata mi ha fatto riprendere. Bricco non mi dice più niente. E vedo solo, questo però mi piace, degli immensi tasti neri, alti, lucidi e del velluto rosso. C. Cose concentrate in pochi centimetri cubi di cervello, poca aria e poca luce, conduzioni insalubri o insalubri, lubridi, salumi, marci, neuroni morti e fiordi neri. Oppure purulente pere, saporosi purea, a me, il purulento purè. Ecco. Questo verso funziona, non è ancora una poesia, ma sembra una pubblicità. C'è dietro una vicenda allusa di re, doremi, un re scandinavo, che ascolta la fiaba raccontatagli dalla nonna e, in dormiveglia, osserva un vecchio bricco pieno di camomilla tiepida. Cantami, o musa, il conato della midosa, dell'amidivoso schiacciatino di pere cotte. Il bambino ha ancora in bocca il sapore della pera, schiacciata con tanto amore, e gli fa schifo. Il bambino vuole stare male perché la nonna non lo lasci solo, e poi la uccide. Ma la nonna era solo ferita. Era solo ferita, dopo si riprende. Io invece non mi riprendo. Appeso al gancio della notte come una salsiccia ad asciugare. Volontà contrastanti nel medesimo sacchetto di nervi e ventresca. E allora fanculo pure la notte che mi piaceva tanto. Quelle belle notti d'estate, sangria. Mi viene in mente San Sebastian, la grande spiaggia. I compagni però non dicono San Sebastian, dicono Donostia, Ostia. Ostia e Donostia, l'infanzia ai 20 anni, ed ora qui, inchiodato tra i grilli, a sognare un bagno, che quasi sento il sale spingermi su, e il braccio che si leva e si immerge, l'acqua nel naso e l'azzurro verde, poi l'onda che ti abbraccia alle spalle, ti si rompe contro il corpo e ti attraversa e ti anticipa, schiuma e grida di bambini che giocano, mentre il braccio affonda ancora nell'acqua. Non è più freddo e ti dici, ah, cazzo, finalmente. Da quanto tempo? Domodossola. Misteriosa città in cui arriva un treno carico di droga, sostanze stupefacenti, magari stupefacenti quasi mai, diciamo droghe come le spezie o il pepe. Essenze per esaltare la sapidità del vivere. Probabilmente talvolta è davvero così. Altrimenti di, come down. Via dunque, per non inchiodarsi, incartarsi, avvitarsi, via, verso estati cilidi, verso estati seminuove, verso la E di ecstasy. Ce ne vorrebbe un pezzetto per temporare, un quartino che sale piano per giri, un contravvitamento che monta come un bolero. Bolero ecstasy. Mi ricordo Boderek e questo mito del sesso col bolero. Almeno ti regolavi sul quarto d'ora. Scherzo, più o meno. Enfatizzo, diciamo, ma insomma, più o meno. Del resto, bisognava pure imparare. Capire che non era come farsi una sega, puntare a venire presto. C'era quel lento andare e tornare, intensità crescenti. Che per noi ragazzini, maschi, intendo. L'istinto era spingere forte, andare veloce, uguale per i motorini. Quando hai imparato i trucchi, quando hai imparato a truccare le marmitte, la prima candela che ti pulisci da solo è un po' come il primo bacio, con queste dita sporche di grasso e le ginocchia che ti fanno male, ma te ne accorgi solo quando ti rialzi e te fumi una bella sigaretta. E il casco non esisteva e c'era il vento in faccia. E lei ti amava, o forse no, però c'erano gli amici e i lividi si confondevano coi succhiotti. Era bello, davvero. C'era una familiarità. F di famiglia. Quante volte ho pensato sei più di un fratello, sei un amico. Per poi essere smentito che un fratello, anche se non te lo sei scelto, anche se non lo capisci, ce l'hai per prescelto, comunque, ce l'hai cuscito addosso, se ridi allo stesso modo, se invecchi in parallelo. Però, gli amici, quando te la strappano da dosso, quando la facciano via, altro che cucitura, c'è proprio un buco, una ferita che non si rimargina più e stai lì, debole, a guardare il mondo da dietro questa feritoia, chiuso e orribilmente spalancato. Questi sono pensieri di notte, pensieri di neve. Fortunatamente si sciolgono al sole. Neve bianca, in notte di pesce, che brucia come un chiodo nelle carni, come in lamiera. Lo so, perché anche io ho un chiodo nelle carni. Non so bene dove, e non so neppure perché, per mesi interi, mi offra tregua. E poi, quando il mio tempo sta per cambiare, si faccia di nuovo sentire, come ora. Ma non ne farai a meno. Non potrai fare senza. In qualche modo è ciò che resta, oltre alla tua immobile e inutile giovinezza. Le rughe, il dono più bello, volti segnati da fiumi scomparsi. Ed ora sei quel fiume, l'eco di un'assenza, il mio male di sopravvivere. Ci vorrebbe un viaggiatore delle anime e del tempo per leggere queste linee come un portolano, ma non c'è viaggio. Nel viaggiatore non c'è un cazzo di niente che non sia questo piano inclinato, questo piatto e polvere bianca, bianca, anche la pagina su cui dissemino l'illusione di un dialogo. Qui è facile mentire. Avrei voluto dimenticare, come si dimenticano persone che sembravano indimenticabili, e luoghi e promesse. Invece sono qui, senza potere, stordito. Qualcosa si è fermato e non cresce e non passa e mi costringe, si costringe a non morire. Sai, quando invecchi perché perdi l'incanto o invecchi male, strano, avvitato su un mondo che già non esiste. Può succedere. C'è gente che dalla paura ingrigisce in un istante. C'è chi in un istante se ne va senza salutare. E c'è chi invecchia in un secondo, in qualche punto, dentro, che poi invece tutto prosegue, tutto procede. E vado avanti. Vado avanti con questo cazzo di chiodo. Scusa, non sono queste le cose che si dicono. Già la G. G come giustificazione. Sento di dovermi giustificare per questo vizio ridicolo di raccontare. Ma è il mio doppio che lo fa. I doppi. I nostri altri possibili. Lo scatto che ti sfiora le dita, che ti si arresta in gola. La scintilla che ti illumina gli occhi e resta lì. I mostri altri possibili che ci affollano i sogni o che ci tengono svegli. Io sono altro da questo doppio infame. Tutto questo è solo scoria e fango e fatica e residuo di sregolatezza. Mi rassicuro da solo, solo, tra amici perduti, tra plasmon e plasma. Non è niente, normalissimo down. Il down esiste, se c'è un up c'è un down. Altro che sale, sale, non fa male, poi cala, cala e ti si accartoccia l'ala. Pensieri di neve. Domani sarò lo stronzo di sempre, questo è rassicurante. Ecco che ho perso il filo. I pensieri rotolano per la testa come perline. Mi piacerebbe trovarne una sola, bella, grossa, una pietra per ricominciare, per ritrovarsi, per sentirsi bene. Un bell'io solido e fanculo queste pietruzze, vetrini, buone solo a tagliarsi le dita. Per H non c'è niente. Povera H muta, sfigata fin dai tempi di nome, cose e città. H come H Larenzia. Mi sa che non vale. No, davvero. Per H non ho niente. Anzi, ho di questi inutili pentimenti. Quando insonne, gonfio di coca cheta speed, nel ventre cupo di mamma notte, so di aver gettato un altro giorno, il prossimo. Ho la consapevolezza di non aver cavato nulla dalla nebulosa delle immagini. Immagini. A volte mi sorprende a coltivare un'immagine, come dire, adolescenziale della mia maturità. Sono lì, tra i vecchi revettari, a fumare sotto un muro di casse, tranquillo. E sono orgoglioso di me. Sbaglio? Bisognerebbe cambiare? Ma sono cambiato. Forse crescere, allora? E sono cresciuti gli altri? No, non è questo. La cosa in sé non salva e non pregiudica, la cosa in sé è poca cosa. Però è inutile negare che c'è un margine d'orgoglio. Ho questa cosa, l'orgoglio. L'orgoglio di classe ce l'ho. La classe non è acqua. No, davvero. L'orgoglio di classe è l'orgoglio di andare al Technival. Strana coppia. Che mi piace il vedersi all'alba con un caffè che è oro. Quegli sguardi. La complicità dell'esserci, del condividere. Noi siamo qui. È un lampo che rimbalza tra gli occhi. Sono istanti che ti ripagano. Ok, non c'è il cesso, ma c'è qualcos'altro. Soprattutto non c'è la polizia. La musica sembra strano. Per me la musica è il meno. È l'aria che si respira. Uno spazio senza padroni. Neanche il padrone di casa, neanche il compagno che ha squattato. Grado zero del potere. Possibilità assoluta. Nel cerchio dei sound sento di essere fuori dallo stato. Quando sono là, tra i fuochi, circondati dalle luci blu delle guardie, la spensieratezza di quei ragazzini, la bellezza anche, e mi piacciono i colori, mi piace come stacca la polvere bianca sulle casse nere, nera la felpa, bianca la A e nera e rossa la bandiera, mi piace quel bordello di lingue, i cani, la rabbia dentro e le stelle sopra, la verità, ciò che sento in maniera autentica è che solo lì oggi sia tangibile qualcosa di davvero giusto. O più semplicemente quello è il mio mondo, è la mia libertà, è il mio legame. Legami. C'è un desiderio di morte, un godimento nella resa. Ho visto cani arrendersi prima del tempo. Arrendersi, perché l'angoscia si era fatta insostenibile. Offrirsi come vittime, provare piacere nella resa, in quanto preludio di liberazione dall'angoscia. Liberi dall'angoscia o liberi dai legami. Legami. No. Moschicida. Moschicida, carta moschicida. Come una mosca sul miele. Ma non è miele. È carta moschicida, cazzo. Moschicida. È sempre così. Come una mosca. Non riesco, cazzo, non ci riesco mai. E resto a farmi ferire sul lato debole. Come fosse miele. E invece è carta moschicida. Quella luce viola, irresistibile. È solo filo elettrico. E sei un cazzo di moscone enorme che resta a friggere e puzza di bruciato. E poi si libera e scappa. Scappa. Ancora rincoglionito, bruciato. Fa due giri e poi torna a quella luce viola come fosse miele. E non è miele, cazzo, non è miele. Però c'è un equivoco sulla coca, c'è un equivoco enorme. È roba da romantici. Niente meno, niente più. Roba da romantici. C'è un grumo di cuore che non si scioglie, che ti rimane come un pezzo di coda, che non lo digerisci, non te lo levi di dosso. È a quel grumo che parla la coca. Bisogna essere privi di autocoscienza, completamente, per non vedere. Siamo lì, incollati al piatto, come mosconi su un filo elettrico, come falene sul rotolo di carta moschicida. Siamo lì, sapendo tutto e di più, sappiamo che ci fotterà il cuore. Sappiamo che è una cazzata, che è studiata per fregarti e che dura troppo poco. Sappiamo tutto, ma continuiamo a volerne altra di vita. Perché siamo mosche o ragazzini innamorati. Non c'è niente da fare, niente. Siamo sempre lì a friggere. Per far vibrare il nostro lato debole, come una membrana ben tesa di carne viva, che di là è tutto marmo e plastica. Potete sparare a pallettoni, non succede più niente. E vogliamo la nostra parte di dolore come un regalo di Natale. N. Quando arrivava Natale si andava al paese. Ragazzini di periferia eravamo tutti figli di non romani. Non integralmente, almeno. A Natale si andava al paese, con il camino e il resto. Il resto sono i cugini, gli zii, per qualcuno anche la montagna con la neve. Non per me. Per me solo freddo e pioggia. Però c'erano i regali e i dolci. C'erano i parenti di su. E una zia milanese che mi chiamava Tony. Lo stesso nome del cattivo in televisione. Avevo 7 anni. E Tony Negri era il capo di un esercito di uomini neri. Poi non ricordo più niente. Solo il sorgere di un'adolescenza sempre più rossa. E il rosso del Natale diventa all'improvviso un cielo per appiccicarci tante stelline, falci e martelli. Sul fondo restava il bianco dei Monti Martani, il bianco di una neve che non arrivava mai. Odio. Dopo Natale ci sta bene l'odio. Se dico odio, pensa al film, a Parigi, agli scontri. Ma lì era niente, era divertimento. I ragazzi rubavano stereo, pardon, espropriavano negozi di scarpe, bar, farmacie. Si cantava, si sfasciava e si cantava. Era quasi una festa. A Genova c'era l'odio vero, una cosa diversa, capace di segnare anche uno che, come me, era già stanco. 30 anni e una consapevolezza diversa del corpo, la consapevolezza chiara della fragilità del cranio, che è una cosa schifosa. Ma quando hanno sparato, è arrivato l'odio, da dentro, una determinazione sconosciuta. C'era la rabbia del ragazzino e il rigore dell'adulto. Siamo andati su con il solo desiderio di fare muro e colpire, difendere e colpire, difendere e colpire. P. Pendolo. Un pendolo che però taglia, che sfrega e sfreggia, fruga e fotte. Un pendolo che avanza e ritorna, e di nuovo, sulla carne viva. Pensare come scarnificarsi. Un pendolo a cannuccia che tira via righe di coca per farne cicatrici sul cervello, micro fessure sull'apparato cranio circolatorio. Fare un disegno, se possibile un bel disegno, se hai culo, o quasi. Q come quasi niente, ma tra il niente e il quasi niente scorre un mondo. È una questione di qualità, di pubblicità e tasti neri e di rivolta. Non ricordo più bene. La R di rivoltato. Il dentro fuori e il fuori dentro, senza pelle, nauseato. Sono diventato una specie di insetto, con l'esoscheletro. A volte ho solo voglia di distruggere. Colonne di fumo e vetrine in frantumi. Ho perso il progetto è smarrito. L'odio è rimasto, anche se non è solo questo. È un po' come pasta lavica. Ci sono dentro pezzetti di cose scintillanti. Vorrei saper scrivere come De Luca. Parole messe su con mestiere, una sull'altra, pietre di un muro a secco. Ma quell'uomo è un tronco d'olivo. Ci senti la legna, il sole, ci senti l'aria fredda e l'azzurro. Per me è diverso. Non mi alzo all'alba per tradurre dall'ebraico. Mi alzo perché i nervi non mi tengono a letto e ho bisogno di terra per scaricare il mio veleno. Qui, credo, scorre il fiume che fa la differenza tra un rivoluzionario e un rivoltato. Però mi ricordo le nostre belle bandiere. L'emozione delle piazze e la stretta del cordone. Il suono che fa il corteo quando entra nel tunnel e le pale degli elicotteri e San Lorenzo. Sentivo i compagni come sentivo il treno. Era una cosa fisica. Mi facevano casa. Vita fa. S. San Lorenzo. Era, per me, un gioco di muretti e birre. Un venir su di locali che ci devi passare in mezzo. E quella falce e martello, grande, ma grande, sulle mura che ci coprivano le spalle, quella falce e martello che già non c'è più. San Lorenzo era un indiano che dice one ball, two ball, three ball, una libreria in discesa, un palazzo a ringhiera, un cinema, per fumarci le sigarette fuori, era i poeti del Marani e la radio. Le canne al mercato, l'acqua dai tubi di Chisa per lavarci le pesche e un parcheggio inventato. San Lorenzo era quando sei giovane. E una cosa così, allora, non l'avrei neanche pensata, perché le chiacchiere stanno a zero e il mondo, se lo spingi, si sposta. Adesso, per spostarmi, mi ci vuole una S di striscia. Livide Cette chose blanche, je la balle et ton corps se dévoile. Une ligne aspirée avec sexe en flanc roulé en cornet. Et voici. TRC. TRC, Terrazzi, Roma, centro. Il ricordo mi si presenta fragrante come una rosetta calda, un ricordo nuovo nuovo, o che sembra nuovo, senza pieghe, come una bella camicia stirata, un petalo dentro un diario. Eravamo due ragazzetti, lei molto carina, per me inarrivabile. Merce appena uscita da qualche Virgilio, Mamiani, Tasso, Visconti, borghesia cavialosa. E io non capivo, me lo ricordo bene, non capivo questo TRC. Ho chiesto. E ho finito col disprezzare l'autocompiacimento di chi parlava di sé e dei suoi, come di TRC. Che Dio le fulmini nei loro terrazzi. Che Dio le strafulmini con le loro bottiglie di vino e le olive sul martini, con la loro musichetta tranquilla e l'ultimo festival di corti. Ci vorrebbero 5 anni in falegnameria e 2 dita in meno, altro che anellini e ciondoli e incensi e scarpettine e unghie dei piedi smaltate. Ci vorrebbe il profeta Elia a scagliare anatemi verdi, uno Jacopone che l'insegua attraverso i secoli, attraverso le grate di una cella, dalla nera cantina di un cranio marcio. O frate Jacopone, sei venuto al paragone, sei piegato, inappagato, in nera cella confinato, chi ti accanta in questo canto? Sol te stesso, et nullo incanto. In tua rocca sei insolato, in tua insula arroccato. Non ti protegge lo scudone, ma di cocco un bel grammone. Di sostanza ne hai mucchietto, per il resto sei un inetto. Umbria, se mai dovessi dire casa, se mai dovessi piegarmi ad una identità, una tomba, un ricordo, al ricordo più antico, questa sarebbe l'Umbria, un odore di vino e libri e cantina e legna da portare su, un paesaggio di colline a rettangoli bruni e gialli e girasoli e castelli, e la mia Umbria è poi solo un pezzo di terra tra Narni ed Assisi, le gole di Corbara, il massiccio blu del Peglia, la pietra bianca e la campagna, soprattutto la campagna di grilli e cicale e mosche e filari d'uva fragola, le more rosse e nere impolverate lungo le strade di sassi e chiaia, da mangiarne tante fino a stare male, le marmellate di prugna, le discussioni eterne sul sale, nel pane e le lucciole. Ma adesso via da qui. Vu, per via da questo orizzonte di viscere. Non più vuoti da riempire, vacuità da temere. Non voglio vedermi avvinghiato in viscide voragini, avvolto, sconvolto, tra volti divisi. Un cappello e una camicia di lino. Essere pieno e calmo, come un prosciutto. Il giornale sul tavolo, il caffè e un paio di sandali chiari. Farei tin tin col cucchiaino, tutto al suo posto. Dimenticare vertigine e vergogna. Ben piantato in terra. Il conto, per favore. Ho una frase qualsiasi. Ancorato ad altri esseri umani, senza questo ronzio. Zanzara. Presa.